in primo piano. Martedì 29 marzo. Le aperture sono dedicate ancora per un giorno alla situazione a Lampedusa e alla situazione internazionale anche sulla Libia. Apre invece su un tema finanziario, il Sole 24 Ore, generali, l'ora della verità. Geronzi convoca il Consiglio straordinario il 6 aprile. Dedicata dunque l'apertura alla principale compagnia assicurativa italiana, uno dei salotti che più contano della finanza italiana. Le altre aperture, come detto il Corriere, immigrati via da Lampedusa con le navi. Per Repubblica, Libia, profughi in tutta Italia. Per La Stampa, sbarchi, Lampedusa in rivolta. Lo stesso titolo c'è su Libero, Lampedusa in rivolta. Il governo affonda Lampedusa, questo per Il Fatto. Per Il Giornale, salviamo gli italiani. Ecco il piano profughi per Il Messaggero. Per l'Unità invece c'è una foto di profughi, di immigrati ammassati su un molo a Lampedusa. E l'Italia dov'è? E ancora incivili. E sono il titolo invece del Manifesto, con migranti che tengono foto di persone loro care in primo piano. Come vedete dunque Lampedusa. Io però voglio iniziare da che cosa? Andiamo a vedere un po' cosa c'è nei portafogli dei parlamentari, perché da ieri sono stati pubblicati un appuntamento annuali, i redditi pubblicati, sono resi noti alla Camera e i giornalisti li hanno consultati, i redditi, le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari, riferite all'anno 2009, dunque dichiarazione dei redditi del 2010. Il Premier raddoppia, l'ultimo è Marcazzan. Marcazzan è un onorevole dell'UDC. Allora, quesito da 0 lire o da 0 euro. Chi è il più ricco in Parlamento, secondo voi? Secondo il nostro alpino Peter Bescapè, chi è il più ricco in Parlamento? Lo guardo un po' con la faccia stranita. Silvio Berlusconi, ovviamente, che denuncia 40.897.004 euro. Davanti ad Antonio Angelucci del PDL 6.180.000 euro, Giuseppe Consolo di Future Libertà 2.308.000, quarta Giulia Bongiorno 2.048.000, poi Maurizio Paniz, Nicolò Ghedini, insomma nei primi sei posti quattro avvocati e un imprenditore e Berlusconi. Primo tra i senatori Umberto Veronesi 1.364.720 euro. Vabbè, ma tutti i giornali pubblicano le classifiche, no? Nel governo, dopo Berlusconi, il più ricco è La Russa, 374.000 euro. Poi Tremonti, 301.000 euro. Il più povero, appunto, è l'onorevole Marcazzan, che è subentrato nel 2010, da poco, ha denunciato nel 2009 10.330 euro. Ma poi ci sono tante curiosità, per esempio il giornale la vede così: dalla Jaguar alla villa in Kenya, i conti in tasca degli onorevoli. Per esempio la Melandri ha comprato una villa a Malindi, una casa, non lo so, non sappiamo, insomma in Kenya comunque. C'è il leghista Pini, che tra l'altro sarà nostro ospite alle 8.20 per l'intervista, perché è colui che ha fatto l'emendamento Pini sulla giustizia. Ha due Harley Davidson e una bianchina giardinetta. Vabbè, insomma, curiosità anche qua e là. Per Libero, quante sorprese nelle tasche degli onorevoli. D'Alema è il più povero a sinistra, dopo Bersani e Veltroni. Potrete sapere tutto di quanto guadagnano, quanto denunciano in dichiarazione dei redditi i nostri politici per quel che riguarda le classifiche. Il più ricco è Berlusconi, il più povero Marcazzan. La seconda segnalazione la faccio velocemente, forse si chiude il cerchio di questa liaison con Mara Carfagna, il ministro Mara Carfagna, che ieri con un video messaggio è intervenuta per troncare definitivamente, chiudere, come ha detto nel suo video, è l'ultima volta che parlerò di vicende personali, questa vicenda Bocchino, moglie di Bocchino, Mara Carfagna, prima la moglie di Bocchino che ha accusato da 2 anni e mezzo sapevo della relazione, poi Italo Bocchino che si è scusato con la moglie pubblicamente, ora Mara Carfagna in un video messaggio nel suo sito dice: devo rispondere a una sola persona, Marco Mezzaroma, il fidanzato che sposerò il prossimo 25 giugno. È l'unica persona che amo dal 2008, anno in cui, scrive anche Repubblica, è iniziata la loro relazione. Il resto sono solo chiacchiere al vento e che il vento se le porti. Così Mara Carfagna, videomessaggio della Carfagna, basta gossip, amo solo mezza Roma, così su Repubblica, mentre Libero ci dedica un'intera pagina, telenovela a Mara. Questo il titolo, sotto per la verità una foto del ministro Mara Carfagna e del fidanzato Marco Mezzaroma che si baciano. La situazione a Lampedusa è la situazione che raccoglie tutte le prime pagine del giornale, una Lampedusa in rivolta anti-immigrati, come titolo del Sole 24 Ore, pagina 9. Ieri gli abitanti, soprattutto le donne, hanno incitato molti pescatori a bloccare il porto per l'arrivo dei nuovi immigrati. Beh, la situazione davvero è caotica e molto tesa, anche se il prefetto Caruso, che è il prefetto di Palermo che gestisce questa situazione, assicura domani la situazione sarà risolta. Domani, d'altronde, ci sarà il Consiglio dei Ministri straordinario con il piano dei siti dove verranno trasferiti questi migranti. Intanto segnalo che il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, è intervistato dal Sole 24 Ore da Giuseppe Oddo a pagina 9. Dice basta polemiche, Maroni mi ha chiesto collaborazione, non posso negarla, ma Lampedusa è stata condannata alla morte civile, sociale, umanitaria e sanitaria e già cominciano le rapine. Le madri non ce la fanno più a sopportare le minacce di 5.000 sventurati allo sbando, hanno bloccato il porto e non fanno entrare più nessuno, sono pronte allo sciopero della fame e andare a Roma a fare l'inferno. E poi Lombardo che dice stiamo predisponendo anche un intervento alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché queste non sono condizioni umane né per i lampedusani né per i tunisini. Sta di fatto che il piano per risolvere questa situazione ormai sarebbe in via di risoluzione. Perché? Secondo tutti i giornali, lo anticipa per esempio Repubblica, Il Messaggero, ma anche sul Corriere della Sera c'è qualcosa già in anteprima, sono stati individuati 13 siti dove verranno probabilmente distribuiti gli immigrati attualmente a Lampedusa. E allora, per esempio, li leggo da Repubblica: in Sicilia e a Pisa le nuove tendopoli. Beh, intanto le tendopoli per il momento sono due, una a Manduria, dove ci sono già problemi di ordine pubblico, in provincia di Taranto, e una a Trapani, vicino all'aeroporto Birgi, militare Birgi. Però ecco i 13 siti del demanio militare indicati dal ministro La Russa, secondo, per esempio, Repubblica. Due centri in Friuli Venezia Giulia, l'ex poligono Charlec di Clauzetto e il deposito a Sgonico. Due in Piemonte, l'ex deposito di munizioni Front e l'ex poligono armamento di Cirè. In Lombardia, l'ex campo della Promessa a Castano Primo, nei pressi di Malpensa. In Emilia Romagna, a Monghidoro. Altri due centri ancora in Puglia, a Carapelle e nell'ex aeroporto di San Pancrazio Salentino, e in Sicilia nell'ex deposito di munizioni a Marsala e a Torretta, a pochi chilometri da Palermo. Questi sarebbero i siti per il momento individuati, ma ripeto, domani ci sarà il Consiglio straordinario dei Ministri e si vedrà. Tanto che il Corriere della Sera, che ieri ha intervistato Maroni, con Fiorenza Sarzanini torna con una nuova strategia che sarebbe lo studio del Viminale. Non è esclusa, il Viminale studia il respingimento di massa. Cioè, invece dei 13 siti, il piano alternativo, se non si fermano gli sbarchi, se non c'è collaborazione dalla Tunisia, è questo. Il governo prevede il respingimento di massa e dunque, se fino a domani non ci sarà questo blocco degli sbarchi, la nave San Marco e quelle della flotta Grimaldi potrebbero fare direttamente rotta su Tunisi invece che smistarli nei 13 siti. Questo comporterebbe, immagino, anche una piccola, se non grande, tensione con la Tunisia stessa. Dicevamo dell'ordine pubblico, a Manduria ci sono le foto, per esempio le troviamo sul Corriere, su Repubblica, sull'Unità, di migranti che scappano, saltano questa rete di un paio di metri e fuggono dal centro di Manduria, tanto che la popolazione chiede di fare le ronde. Lo mette a pagina 3 del Secolo XIX, Manduria, le ronde arrestano chi prova a fuggire, abitanti mobilitati contro i clandestini. E anche per l'Unità, licenza di sparare, la richiesta delle ronde di Manduria. Certo che la situazione sia di tensione, lo certifica anche un editoriale di Vittorio Feltri in prima pagina di Libero, che riassumo così: Lampedusa in rivolta, occhio, ci scappa il morto. Se va avanti così alla Carlona, scrive Vittorio Feltri, senza risolvere il problema, stiamo certi, ci scapperà il morto. Vogliamo arrivare a tanto? È davvero inquietante l'analisi di Vittorio Feltri. Ovviamente la situazione è anche una situazione legata, totalmente legata a quello che sta succedendo al di là del Mediterraneo. In Libia, dove la notizia è che c'è stato un meeting a 4 ieri, una videoconferenza tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, senza l'Italia, come sottolineano tutti i giornali. Meeting a 4 senza Italia, scrive Mario Platero a pagina 8 del Sole 24 Ore. Frattini dice: non ci sentiamo esclusi. Segnalo che il ministro degli esteri Frattini sarà ospite di Oscar Giannino alle 9. Sarà con Oscar Giannino alle 9. Frattini dice: non siamo esclusi, mentre il leader dell'opposizione Bersani dice: è una catastrofe, l'Italia è stata esclusa da questo pre-colloquio a 4. Ma l'incontro, diciamo, più importante, cioè l'incontro straordinario sulla Libia, si terrà oggi a Londra con tutti i ministri degli esteri. Oh, lasciamo le cose internazionali, che poi sono anche nazionali, perché la situazione di Lampedusa davvero ci riguarda in primo piano, ma nel senso lasciamo gli scenari internazionali per vedere che cosa succede invece nella politica, politica che ha la giustizia in primo piano come tema. Beh, intanto per la comparsata ieri del premier Berlusconi al Tribunale di Milano, dove è successa una cosa che è stata certificata da tutti i telegiornali, da tutti noi, dal giornale radio, l'avete sentito, la clac, o meglio, non erano neanche tantissime, erano 200 persone circa che si sono contrapposte, no? La clac per il premier Berlusconi, che ha fatto un nuovo predellino, no? è salito come nel 2007 nuovamente sul predellino, e tutti gli analisti, da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera a Ezio Mauro, direttore di Repubblica, che invece lo critica, insomma, analizzano questo nuovo predellino. Berlusconi che ha fatto ha trasformato sicuramente anche questa udienza in un motivo per fare qualche dichiarazione politica, preceduta anche da un'intervista a Canale 5 nella quale ha attaccato, insomma, i magistrati comunisti. Tanto che Libero scrive: lo show di Silvio spiazza i PM, il tribunale come lo stadio, la sfida tra ultra. C'erano gli striscioni, c'era il solito Piero Ricca, quello che gridò buffone o puffone a Berlusconi, c'erano alcuni militanti dell'Italia dei Valori con lo striscione bentornato, dentro ti stanno aspettando. C'erano invece i sostenitori del presidente Berlusconi, convocati dal sottosegretario e coordinatore regionale della Lombardia del PDL Mario Mantovani. C'era anche Noël, che viene intervistata dal Messaggero a pagina 7, pazza di Silvio, altro che soldi, per lui pagherei io. Io da 11 anni sono sempre qui. Noi milanesi poi tra qualche giorno dobbiamo scegliere tra il sindaco Moratti e quel comunista di Pisapia, dice, è una delle fan di Berlusconi, no? I cosacchi a San Babila, dobbiamo stare sempre molto attenti, dice Noel. Se lui molla succede un disastro, la sinistra si mangia tutto, bambini compresi, sì certo anche loro, e saremo invasi dagli immigrati. E poi questa Noel, alla domanda del Messaggero: scusi, ma il Cavaliere non passa le serate ad Arcore con voi? E fa bene, avrà pure diritto di fare ciò che crede a casa sua. Nessuno ricorda cosa faceva Kennedy, Clinton? Beh, ma signora, non erano minorenni le persone che frequentavano. Ma l'ha vista quella signorina lei? Le sembra una minorenne? Beh, lo dice la carta d'identità, signora. Ah, vabbè, ma alle donne gli anni non si chiedono mai. Questa è Noel, fan di Silvio Berlusconi. Anche il Secolo XIX, pro Silvio e pro PM, 300 ultra si sfidano in piazza con striscioni e slogan. Il Quotidiano Nazionale lo mette anche in prima pagina, addirittura un Berlusconi protetto, come si è visto nelle foto all'uscita, quando è salito sul predellino, da un giubbotto antiproiettili che uno della scorta gli ha messo alle spalle per evitare nuovi casi tartaglia, no? Il Fatto Quotidiano invece è durissimo oggi con un resoconto di Fabrizio D'Esposito, a parte a dire che dice il Fatto Quotidiano, in tribunale lo molla pure la clacca, solo in 100 rispondono alla adunata. C'è un Berlusconi, secondo il Fatto Quotidiano, definito come un uomo solo, malato, nonostante, scrive Fabrizio D'Esposito, negli ambienti della maggioranza si racconta che i festini sono ripresi, ma per alleviare la solitudine raccontano che sere fa ha invitato a cena i ragazzi della scorta. Addirittura il Fatto definisce Berlusconi così: chi parla con lui lo descrive umorale e schizzoide. Questo per il Fatto Quotidiano, che conclude se questo è un premier. Ci sono resoconti anche di quella che sarebbe stata l'udienza con Berlusconi, che si è presentato davanti alla cancelliera e gli ha detto: lei è la cancelliera? Sì, ecco, brava, cancelli tutto questo processo. Ovviamente risate e quant'altro. Insomma, ma di giustizia si parla anche per quel che riguarda la responsabilità civile dei giudici. Due resoconti su Corriere Repubblica, per la verità, contrari, contrapposti. La responsabilità dei giudici è quella dell'emendamento Pini, l'onorevole Pini della Lega, che per l'appunto sarà il nostro ospite alle 8:20, che vuole estendere la responsabilità civile dei giudici. Per il Corriere, responsabilità dei giudici, ora la maggioranza frena. L'emendamento Pini dovrebbe essere addirittura ritirato, mentre per Repubblica il Cavaliere tira dritto. La gente è con noi. Non gli importa e nessuna sorpresa per l'emendamento del leghista romagnolo Gianluca Pini. Allora, tira dritto Berlusconi o la maggioranza frena? Questo emendamento Pini reggerà o non reggerà? Verrà ritirato o rimane? Ce lo dirà lo stesso onorevole Pini alle 8:20 forse. Vabbè, per chiudere il capitolo giustizia c'è anche una notizia che viene data oggi solo da Repubblica, cioè che potrebbero arrivare nuovi guai giudiziari per Berlusconi, perché la Procura di Roma è intenzionata a chiedere oggi stesso il rinvio a giudizio di Berlusconi per concussione e minacce per le pressioni esercitate su Giancarlo Innocenzi, ex commissario dell'AGCOM, e su Mauro Masi, il direttore generale della RAI, con l'obiettivo di far sospendere la trasmissione Anno Zero di Santoro. I PM al Tribunale dei Ministri tentò di cancellare Anno Zero, Berlusconi va processato. Questo titola pagina 11 Repubblica, dunque forse un'altra richiesta al Tribunale dei Ministri, in questo caso che dovrà decidere se chiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del Presidente del Consiglio. Insomma, si profilano nuovi guai giudiziari, dice Repubblica, per Berlusconi. Lasciamo le cose di giustizia, voglio andare all'apertura del Sole 24 Ore, come detto è molto finanziaria oggi, Generali, l'ora della verità. Si concentra il Sole sulla principale compagnia assicurativa italiana, con Geronzi che ha convocato il Consiglio straordinario il 6 aprile, secondo un documento che è in grado di anticipare il Sole 24 Ore, lo fa a pagina 5, una mail per la verità, non anticipata come generalmente avviene da una telefonata normale. Ma Geronzi ha fissato il board straordinario per arrivare al chiarimento dopo due mesi di polemiche serrate giunte al culmine, scrive il Sole, con l'astensione sui conti del vicepresidente Vincent Bolloré al board del 16 marzo e le successive dichiarazioni infuocate da parte di gran parte del Consiglio. Dunque si chiederebbero anche sanzioni nei confronti di Bolloré, certo una resa dei conti in vista del 6 aprile fissato per quello che è, ripetiamo, diciamo il salotto che più conta probabilmente in Italia per quel che riguarda la finanza. Tutti i dettagli, anche i particolari, sono a pagina 5 del Sole 24 Ore, un'intera pagina del Sole che anticipa questa notizia. Sempre per rimanere in campo dell'economia, beh, c'è una notizia di cronaca anche giudiziaria che c'è sul Sole, c'è anche sulla Stampa, un'intera pagina. Finisce con quattro arresti, o meglio svolta con quattro arresti, il caso Ajazzone. In carcere gli utilizzatori del marchio, tra questi anche Gianmauro Borsano, l'ex proprietario del Torino Calcio, ex parlamentare dei socialisti, contestata evasione fiscale e bancarotta. Insomma, l'ex presidente del Torino Calcio, Borsano, è stato arrestato ieri mattina insieme al suo socio, il finanziere torinese Renato Semeraro, nell'ambito dell'inchiesta sul gruppo Borsano e Semeraro, che aveva rilevato i marchi Ajazzone ed Emmelunga. La procura di Roma che indaga, ne scrive il Sole a pagina 23, e anche la Stampa un'intera pagina, pagina 11. Crack Ajazzone, arrestato Borsano, che viene definito il Berluschino. C'è anche un racconto di Giampiero Paviolo di come conquistò il Toro, divenne presidente del Torino, poi il pieno di voti con i socialisti e infine il fallimento. E il racconto della cronaca è così: mentre migliaia di famiglie inferocite aspettavano i loro mobili furmetti del comodino, si godevano la vita, i clienti esasperati abbattevano a sassate le insegne di Azzone e i furbetti si facevano un voletto sul Cessna privato, il direttore di un mobilificio in Puglia veniva massacrato di botte da qualche cliente frustrato e i furbetti mandavano a lucidare il Porsche Cayenne ora sequestrato, il web ribolliva di insulti, a Modena qualcuno sparava contro le saracinesche, i furbetti si facevano una traversata in barca. Nulla sembrava turbarli. Ieri i quattro arresti. Oggi, insomma, abbonda la cronaca giudiziaria. Guai anche per Paolo Maldini, l'ex calciatore, ex bandiera storica del Milan, ex capitano di grandi vittorie. È stato rinviato a giudizio, anche per il giornale un'intera pagina. Ha corrotto, ora dovrà dribblare i PM. Secondo l'accusa avrebbe pagato un funzionario dell'Agenzia delle Entrate per evitare controlli fiscali. E in più ha anche avuto un accesso a dati riservati, secondo l'accusa, per controllare una persona con cui doveva entrare in società e fare alcuni affari. Insomma, Paolo Maldini rinviato a giudizio, l'ex capitano del Milan. Peter Bescapè qui ha un sussulto. Cosa c'è ancora sui giornali? Vi segnalo un'interessante intervista a Francesco Saverio Borrelli, l'ex capo della Procura di Milano, giusto per parlare continuamente di giustizia, che inizia una nuova vita, la nuova vita del giudice Borrelli. Sarò un mediatore. Tempi lontani, quelli del 2002, quando pronunciò il famoso resistere, ora... lo definisce lui l'ennesima dimostrazione che le mie valutazioni non sono mai state dettate da ragioni politiche. Inizierò il corso a maggio per diventare mediatore civile, la nuova figura prevista dalla riforma Alfano. È una figura assolutamente giusta, c'è un vantaggio etico nella mediazione, cioè quello di far capire a due parti, prima di andare in causa, che c'è l'obbligo di convincere due persone che è meglio trovare un punto d'accordo anziché andare allo scontro. Per avere tempi accettabili nella giustizia servirebbe almeno il quadruplo dell'organico dei magistrati. Non credo che lo Stato possa sostenere un simile sforzo. Invece credo che questa sia una grande occasione per il Paese. E quindi farò il corso di mediatore civile. Chiudo con una notizia che comincia a vedersi sui giornali nazionali. Il Secolo XIX ci dedica una pagina. C'è un possibile miracolo in vista. In provincia di Pavia... acqua di sorgente dall'altare. Succede in un paese in provincia di Como, a Villa Guardia, dove un altare nel comasco, quando i fedeli pregano, da quest'altare esce acqua. Il parroco per 2 anni non ha detto nulla. Prima ha fatto esaminare tutto dalla RIS di Parma, dalla scienza. Il RIS ha certificato: esce da quell'altare acqua purissima. Il perché ovviamente è un mistero, qualcuno già grida al miracolo, la Chiesa come al solito in questi casi è molto molto prudente, acqua di sorgente dall'altare, il RIS certifica il miracolo. Succede a Villa Guardia in provincia di Como. Noi ci fermiamo, parliamo nel sondaggio della proposta CGIL di tassare la ricchezza. Avremo anche ospite Oscar Giannino, il giornale radio.